Non magna mai l'amore le rai, ma ognor beve il cantor le rai, le rai. L'uomo nella stanza di Rosò. Svenuto per errore, svenuto per errore. Signorino, Rosaura è qui. Dunque, non siete là? No, dal dottore. Come? Quando? Non so. La polverina. Venditemi il dottor. Chiuso in la camera. Grida sternuta. Sfogliacarri e sbraita. Chi c'è la bue? Il servo, il capitano. Un maledetto polverina. Or via, fuggia. Consiglio. La polverina maledir per te, essa ci ha fatto guadagnar del tempo. Fuggi, ridete, mio bel paese, il mondo più giocondo. Credete a Colombina, cerchiamo d'aiutar la polverina. Sì, sì. Che fare? E fai, decisi, il capitan commuoverò. Decisi, il servitore sedurrò. Cosa? Non lo so. Oh.